Nova Lab 24. Nova Lab 24. La voce dell'innovazione. Eccoci, sono le 16.34, Luca Tremolada, Luca Dello Iacovo. Oggi abbiamo come tema, insomma ieri è stato approvato il decreto Romani, lo commenteremo, lo analizzeremo con Guido Scorza che è in collegamento con noi. Poi abbiamo un gioco, Fate la carità, una satira politica, però insomma restiamo un po' in tema, una puntata un po' così, un po' sui generis. Prima le news. Prima le news. Google scommette sulla fotografia digitale. Il motore di ricerca ha acquistato Picnic. È una piattaforma tecnologica specializzata nelle modifiche alle immagini direttamente su internet. Ha 2 milioni di utenti unici mensili ed è utilizzato anche dal social network Facebook e dalla comunità di fotoamatori Flickr. Un chip ridurrà i costi delle tecnologie portatili per ebook. L'annuncio arriva da Freescale, un'azienda californiana all'avanguardia nello sviluppo di semiconduttori. Il nuovo microprocessore raddoppia la velocità di lettura, incrementa la durata della batteria e supporta display a colori più ampi. Passiamo all'astronomia. Ghiaccio sui poli lunari. La sonda indiana Chandrayaan ha scoperto depositi di acqua congelata. I crateri osservati hanno un diametro da 2 a 15 chilometri. Secondo la NASA, lo spessore del ghiaccio è di almeno 2 metri. Rieccoci, allora, è stato, come dicevo prima, è stato approvato il decreto Romani, decreto accompagnato da grandissime polemiche. Il timore qual era? Era quello di trasformare il web in una grande emittente televisiva dove anche chi ha un piccolo blog oppure ha un sito di video sharing deve rispettare determinati obblighi. Sì, sarebbe stato tutto molto più complicato se appunto fosse passata la versione precedente. Invece poi si è arrivati ad un'altra versione e noi vogliamo capire se questa versione qui insomma scongiura determinati problemi o magari apre nuovi interrogativi. Guido Scorza, avvocato, esperto di diritto informatico, buongiorno, la seconda volta. Buongiorno a voi. Allora, che testo esce dal Consiglio dei Ministri? Esce un testo decisamente migliore per quanto riguarda le cose della rete, dal mio punto di vista non ancora ottimo, nel senso che talune ambiguità restano. Ora è chiara la volontà del governo di non trasformare tutta la rete in una grande TV, ovvero è chiaro che qualcosa di ciò che è online non abbia niente a che vedere con la TV e non possa quindi scontare la disciplina propria del sistema radiotelevisivo, ma resta ancora il dubbio che complici alcuni tecnici e alcune definizioni ambigue che permangono nel nuovo testo, il videoblogger ad esempio, sul quale viene raccolta un po' di pubblicità e piuttosto ricco di contenuti, possa dar luogo a qualche piccolo problema. Ecco, potrebbe cambiare qualcosa quindi per chi ha un blog e per esempio pubblica un video di YouTube e c'è anche della pubblicità quindi accanto, perché a quanto pare il problema è anche se la persona guadagna qualcosa con il suo videoblog oppure no. È esattamente questa una delle principali perplessità che permangono nel nuovo testo. Il nuovo testo dice che non c'è TV laddove il sito internet privato non abbia un obiettivo precipuamente economico e non diffonda contenuti suscettibili di entrare in concorrenza con una emittente televisiva. Naturalmente non è chiaro dal testo, manca qualsiasi riferimento che consenta di dire quando questi due presupposti debbano intendersi non sussistenti. Quindi la raccolta di pubblicità attraverso AdSense o altro programma analogo o piuttosto viceversa la ricchezza di contenuti tanto da far sì che gli utenti stanno davanti ad un videoblog piuttosto che davanti ad una televisione, trasforma quel blog in una TV? Ecco, questa è una domanda che anche alla luce del nuovo testo del decreto Romani rimane praticamente insoddisfatta e quindi da qui... Ecco, se io volessi aprire però una web TV per esempio, cambia qualcosa adesso con il decreto Romani? Quindi se volessi aprire un sito dove trasmetto delle informazioni, è dedicata allo sport, è dedicata al fitness... Audio video, insomma, dove il materiale, il contenuto principale è l'audio video. non c'è nessun dubbio che se questo fosse fatto nell'ambito di un'attività economica, quindi per trarre profitto, oggi di fatto si sconterebbe la stessa identica disciplina che si sconta laddove si voglia aprire un'emittente televisiva. C'è quindi bisogno di un'autorizzazione che si ottiene, per la verità, all'esito di un processo piuttosto light, nel senso che è una dichiarazione di inizio attività ciò che è richiesta al gestore di questa web TV, ma da quel momento ciò che più conta, ma forse è giusto così, si sconta proprio la disciplina delle emittenti televisive, e quindi c'è una precisa responsabilità editoriale del soggetto che gestisce la web TV in questione. Allora, intanto io ricordo 824 0024 se volete chiedere qualche cosa a Guido Scorza, se siete dei piccoli Rupert Murdoch che magari vogliono tentare la scalata. 349-238-6666 gli sms. Io però, a proposito proprio di Rupert Murdoch, YouTube in questo momento com'è configurato per il decreto Romani? E questa è un'altra delle questioni ancora aperte, nel senso che sul punto la definizione contenuta nell'articolo 4 del decreto è ambigua. Ambigua in questo senso: è chiarissima la volontà del legislatore di escludere le piattaforme UGC dall'ambito di applicabilità della legge, è meno chiaro che questo lo si sia riuscito a tradurre in norma, perché di fatto la previsione secondo la quale chi gestisce una piattaforma attraverso la quale vengono pubblicati i contenuti di terzi è agganciata attraverso un E del quale non è ben chiara la portata, cioè vale AND o vale OR, per dirla con la logica booleana, alle due previsioni di cui dicevamo prima, cioè in sussistenza di un obiettivo economico e non concorrenzialità con la TV. Quindi, per dirla diversamente, l'ambiguità che permane all'esito del nuovo testo del Romani è sostanzialmente questa: uno YouTube proprio, cioè uno YouTube attraverso il quale si raccoglie tanta pubblicità e si fa concorrenza alla TV, sconta la stessa disciplina di una TV o meno? Ecco, anche su questa, anche a questa domanda è difficile trovare una risposta nel nuovo decreto Romani. Ecco, è cambiato il ruolo del garante della privacy? Ha più poteri? È cambiato soprattutto il ruolo, direi, del garante per le comunicazioni. Il garante per la privacy conserva sostanzialmente i poteri che aveva, ma non c'è nessun dubbio che l'autorità garante per le comunicazioni diventa, con questo decreto Romani, d'altra parte esattamente come con il precedente, quello che io ho già definito un po' uno sceriffo della rete. Ecco, una figura che non fa molta simpatia, per la verità, nel senso che, come è giusto che sia, l'autorità per le garanzie delle comunicazioni viene riconosciuto il controllo su tutto ciò che è TV e quindi su tutti quelli che oggi sono definiti fornitori di servizi media audiovisivi, ma gli vengono riconosciuti dei poteri, a mio avviso, un po' eccessivi, ovvero gli viene riconosciuto il potere, a ricorrere di taluni presupposti, di intervenire a inibire la trasmissione o addirittura la recezione di determinati contenuti sul territorio italiano, laddove si registrino violazioni attinenti, tra l'altro, al diritto d'autore, all'omessa rettifica o piuttosto a tutela dei minori. Allora, grazie Guido Scorza, resti con noi però, anche perché se arrivano domande dagli ascoltatori le giriamo in tempo reale, ma cambiamo in un certo senso, anzi voltiamo pagina, passiamo a ragionare di videogiochi molto particolari, videogiochi che lanciano dei messaggi, videogiochi che hanno, diciamo, una critica sociale all'interno. Che hanno un messaggio anche diverso dal solito, quindi non è solo il gioco per divertimento, ma anche il gioco per riflettere. Sentiamo la scheda. La grande crisi di fine millennio ha cambiato interamente il nostro paese. La capitale, Monnezzopoli, è un agglomerato di senza tetto che devono lottare per vivere. La missione? Sopravvivere. Questa è la storia di Per Pietà, un browser game satirico unico nel suo genere. Lo ha realizzato una software house italiana, Calicantus Entertainment. Tra i personaggi che popolano questo mondo virtuale c'è Di Pietra Zecca, difensore dei sotterranei, Quattromonti, il guru delle regole di sopravvivenza dei senza tetto, Pero Angela, ex professore, ora specialista di distillazione di alcol e capo della comunità dei nanerottoli. Se qualcuno si sente tirato in causa, può stare tranquillo. Come canterebbe Edoardo Bennato, sono solo videogiochi, anzi, videogiochetti. Sono solo canzonette, non mettetemi alle strette, sono... Vabbè, abbiamo voluto un po' scherzare. Noi abbiamo qui con noi Fabrizio Cali, il presidente, il CEO di Calicantus e anche, diciamo, la persona che ha voluto più di tutti questo Fate la Carità. sì, è stata una cosa in comune. Siamo un'azienda che ha soprattutto idee, quindi... Cioè sta prendendo un passo indietro facendo... No, anzi, diciamo che la grande supervisione dei contenuti è mia, quindi è colpa mia da un certo punto di vista in quasi tutto. Nel senso che ovviamente, come tutte le idee a nostro parere buone, non nascono mai da soli, è la concomitanza di vari che... Com'è che è nata questo gioco, che è un po' una satira moderna? Quando ho presentato l'argomento della puntata, faccio un brevissimo inciso, mi hanno subito detto gli alti livelli di Radio 24: ma non è di cattivo gusto parlare di crisi economica? E lì ho capito che il tema era quello, che era giusto portarlo in trasmissione, perché forse il fatto di utilizzare un videogioco che racconta o che fa la realtà sempre in maniera con la satira è estremamente interessante. Ma l'idea è nata in realtà dai nostri brainstorming che facciamo regolarmente su creazione di nuove idee, eccetera. E uno degli argomenti sostanzialmente tabù che ci sono nei nostri forum, noi gestiamo vari giochi online, è proprio la politica. L'idea è nata di creare un gioco che si occupasse di politica. Ovviamente noi non vogliamo occuparci di politica perché non è il nostro mestiere, noi facciamo videogiochi. Però, e quindi l'idea era di occuparcene in tema satirico e divertente, cercando in fondo di prendersi in giro. Per cui insomma diciamo che è political correct il gioco. Assolutamente, nel senso totale. Nova Lab 24. Allora, 16:46, sempre Luca Tremolato al microfono, Luca Dello Iacovo, abbiamo Alessandro da Bergamo in linea, buongiorno. Buongiorno, volevo fare una domanda all'esperto. Sì. Io ho un piccolo sito collegato a YouTube dove propongo i miei prodotti usati tramite dei video fatti da me. Quindi lei ha un account su YouTube, no? Esatto. Da questo account su YouTube propone insomma dei prodotti. Esatto, sono prodotti usati e li propongo, insomma li spiego con un video, che è sempre meglio che con delle semplici foto. E visto che faccio del profitto con questi video, perché poi propongo la vendita, volevo chiedere se in merito a queste nuove normative cambiava qualcosa, dovevo registrarmi in modo diverso, non lo so. Guido Scorza, ha sentito. Sì, una domanda è un dubbio che probabilmente in tanti hanno in questo momento. Tendenzialmente direi che nel caso dell'ascoltatore la questione ha poco a che vedere con il decreto Romani, nel senso che sì, certamente trae un utile, ma lo trae dalla vendita, immagino, almeno da quello che ci racconta, del bene che presenta semplicemente in un video anziché diciamo in una descrizione per immagine o testuale. Quindi sarei portato a dire che alla luce del nuovo testo del decreto Romani può star tranquillo, salvo naturalmente che un giudice domani o l'Agicom stessa potrebbero pensarla diversamente, ma dovrebbe poter star tranquillo perché certamente non fa concorrenza ad un'emittente televisiva e la sua attività da gestore di questo canale su YouTube non penso possa definirsi principalmente economica quanto appunto ai contenuti che diffonde. Sì, no, mi sento anch'io di tranquillizzarlo, nel senso che altrimenti diventa veramente complicato. Ogni qualsiasi tipo di filmino che viene pubblicato su internet può diventare uno strumento anche per fare commercio elettronico, però sono cose un po' diverse. Però dimostra anche quanto è diventato complesso alla fine anche capire l'ambiente in cui succedono queste cose, cioè il video non è più soltanto all'interno di YouTube, però poi viene anche spostato, si trova all'interno di altri contesti e quindi vengono anche create delle attività commerciali, anche pubblicitarie, intorno a questi video. Ecco, è antipatico pensare che una legge possa scoraggiare l'iniziativa privata fino a questo punto. Insomma, il fatto stesso che Alessandro abbia un dubbio significa che in questo momento nell'approccio del legislatore a internet c'è qualcosa che non va. Grazie Guido Scorza. Torniamo da Fabrizio Calid al suo Calicantus, che durante il traffico ci ha detto che avete già 10.000 giocatori che insomma stanno affrontando i vari personaggi della politica e non camuffati in questo scenario apocalittico, no? Sono 10.000 registrati, poi alcuni ovviamente gli è piaciuto il gioco e quindi continuano a giocare, altri no, ma questo fa parte dei giochi, è normale. Ecco, ma funziona raccontare, cioè utilizzare il gioco non tanto per lanciare messaggi politici, ma per insomma parlare di cose che succedono nel paese? Noi avevamo parlato un paio di mesi fa di Molle Industria, che proprio sono giochi in flash, sono completamente diversi, però lì l'obiettivo è proprio la critica sociale. Ma posso dire che succedono due cose strane nel gioco che ci fanno pensare che in realtà il messaggio arriva. Il primo, che l'unica comunità in cui non viene affrontato in maniera seria qualsiasi argomento politico è la comunità di Fate la Carità. Quindi entrano, e la seconda cosa, che molti di loro sono entrati proprio nei personaggi, cioè il loro comportamento è anche satirico nel parlare con gli altri, nel comunicare con gli altri. Ricordiamoci, noi siamo giochi sociali, perché in realtà incontrano. Quindi diventa una parodia di quello che sta succedendo? Assolutamente, ognuno di loro, ognuno dei giocatori in realtà si ferma al punto in cui ci si diverte, ma allo stesso tempo non si arriva mai fuori. Tu parlavi prima di buon gusto, noi eravamo preoccupati onestamente di quello che sarebbe successo nella comunità, perché sarebbe potuto succedere di tutto. Diciamo che, devo dire la verità, è la comunità più pulita e più perfetta che io abbia mai visto, proprio perché probabilmente l'argomento comunque fa pensare in assoluto. E poi diventa quindi un teatro, cioè le persone interpretano dei ruoli. Esatto, tutti loro interpretano dei ruoli, è molto facile per loro. In fondo lo scopo di tutti i giochi è divertirsi e nello stesso tempo un po' anche pensare. Si augura che si pensi un po' di più. Esatto, il concetto è questo, nel senso che a quel punto non, in fondo non essendo nulla di serio diventa serio, il concetto è un po' questo. Noi non abbiamo obiettivi sociali né di derisione, né, neanche forse neanche di satira. L'obiettivo è cercare di prendere alla leggera un problema molto serio e però nello stesso tempo far pensare che il problema esiste, perché comunque ognuno di loro vive in questo mondo da senza tetto, quindi in realtà deve poi vivere, deve affrontare anche una serie di cose che poi in realtà non abbiamo trasposto dal mondo reale, ma che li fa concettualmente pensare. Tante le persone che vogliono disegnare, inventarsi giochi in Italia? Sono tante. Da quando noi siamo sul mercato da 3 anni, riceviamo spesso proposte di giochi. Noi siamo in un settore particolare, quello dei giochi online, che è un sottosettore dei videogiochi in assoluto. Riceviamo tante proposte di ragazzi che molte volte anche da soli o nel loro tempo libero o quando possono vorrebbero fare dei giochi. È un mercato sicuramente molto in crescita, ancora in Italia molto piccolo dal punto di vista degli attori presenti sul mercato, però noi stessi ci auguriamo che cresca concettualmente. Ecco, io ringrazio Fabrizio Cali. Noi ricordiamo che insomma sulla Romane, sui temi della libertà in rete, continuiamo a occuparci, ce lo occuperemo durante la trasmissione. Ricordiamo che c'è una pagina di Facebook, la nostra la piccola Isola Felice, dove raccogliamo le idee e suggerimenti degli ascoltatori e dei lettori. Un saluto, no? Arrivederci. A domani alle 16:30, grazie.